L'estate non finisce, è alla Cabura, nel Parco dei Giardini di Corticella, continua fino almeno al 12 di settembre con cinema, teatro e musica. Per parlarne siamo al telefono con Stefano Baratti, che saluto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora Stefano, avete in campo ancora tante iniziative che appunto proseguiranno anche appunto in questa lunga estate a partire dal 28 di agosto. Sì, dal 28 agosto riprendiamo, dopo praticamente un fermo di un anno, l'Estate Doc. L'Estate Doc è una manifestazione che abbiamo proiettato negli anni assieme alla DER, che è l'Associazione dei Documentaristi dell'Emilia Romagna, sono dei documentari sostanzialmente. Quest'anno abbiamo scelto 4 documentari che verranno proiettati dal 28 al 31 di agosto alle ore 21, però questi 4 documentari hanno una valenza culturale e sportiva a 360 gradi. Infatti abbiamo nel primo lavoro del 28 è un filmato sulla Uno Bianca, quindi con tutta la tematica che è stata quello che è stato poi per Bologna e tutto il dramma dell'Uno Bianca, realizzata da Roberto Guglielmi e Enzo Negroni, però realizzata con gli studenti del corso di doc del liceo Laura Bassi, quindi diciamo che è un lavoro collettivo. Poi passiamo da domenica 29 con Lute Blisé, il 30 invece passiamo allo sport con il Grande Slam ed è un passaggio su quello che è avvenuto nel mondo della pallavolo nel 1990, che è stato un anno dove si è vinto di tutto, perché si è vinto la Maxicon, ha vinto il campionato, la Phillies Modena ha vinto la Coppa dei Campioni e l'Italia ha vinto a Rio, ha vinto il mondiale, quindi diciamo che è stata una stagione molto prolifera. Si chiude questa rassegna con Riviera Clubbing, che è il ricordo di quello che è successo in Riviera con le discoteche, quindi la nascita, diciamo, della dance music nella Riviera Adriatica. La rassegna appunto non si ferma, perché a partire dal giorno successivo, dal primo di settembre, ci sarà spazio invece per musica e teatro. Sì, praticamente dal primo di settembre, dall'1 al 5 settembre, riprendiamo il nostro, diciamo, estate al parto che abbiamo realizzato a luglio, quindi dal primo di luglio al primo agosto, solo che alcune serate sono saltate, vuoi per il tempo e vuoi per gli europei. Quindi abbiamo deciso di recuperare queste date in un cartellone, diciamo, di settembre, dove abbiamo mercoledì 1 Dario Criserà, che è un attore, coreografo, multitouch, come si dice, lui si arrabbia, però è così, che porta una vita d'inferno, che è, quest'anno sono, mi sembra, il 700 anni di Dante, quindi porta all'inferno di Dante, però è molto bello perché è in chiave comica, lui realizza questi spettacoli e li porta in giro nei licei bolognesi e non, ed è apprezzato perché praticamente attraverso queste storie racconta la storia che è avvenuta, però è apprezzato perché fa avvicinare alla storia i ragazzi, quindi è, diciamo, uno spettacolo, un monologo su Dante, quindi sull'inferno di Dante, però i personaggi li fa tutti lui, quindi ci sono 10-12 personaggi, lui cambia voce, cambia personaggio, è veramente strepitoso, è molto molto bravo. Poi giovedì 2 invece, dal 2 al 5 avremo tutte le serate di musica. Allora, la prima serata del 2 sono Fan Club, che è un gruppo che porta gli anni 80, diciamo. Il venerdì 3 di settembre abbiamo i Suonatori Compulsivi Anonimi, che portano uno spettacolo molto interessante perché è musica ma anche ricordi. Il titolo della serata è Atleti Ribelli. Chi sono gli atleti ribelli? Sono quegli atleti che, pur avendo giocato, però hanno preso posizioni di carattere politico, sociologico e quindi hanno fatto una svolta, cioè non sono stati catalogati come lo sportivo, ma hanno, oltre al fatto di essere stati sportivi, hanno anche dato un'impronta sul sociale. Poi il 4 settembre abbiamo gli Old Cats Blues Band, che è una band blues, e questa serata qua sarà anche una serata interessante perché è nell'ambito della rassegna di Nashville, è una rassegna che il comitato Salviamo il Naville, che è quel comitato che si occupa del Naville, del canale Naville, che ha portato a un miglioramento delle condizioni del Naville, stando dietro a quello che è, diciamo, l'amministrazione pubblica pubbliche in generale, dalla regione al comune di Bologna, quindi c'è stato tutto questo rinnovamento, e nell'ambito di questo rinnovamento, diciamo, effettivo, no? Cioè la pulizia del canale, il rimboscamento, cioè quindi tutto quello che c'è stato, diciamo, di tecnico legato al canale, cioè, vuole anche portare un aspetto di carattere culturale al canale stesso, e quindi propone musiche lungo il canale e anche nelle associazioni che hanno aderito, in questo caso Vitruvio e noi come associazione Cabura, e quindi lungo il canale ci saranno dei momenti di musica in acustica durante al pomeriggio, nel tardo pomeriggio 17-19, mentre invece alla sera sia di Vitruvio che anche da noi, quindi da Vitruvio al Battiferro, diciamo, e da noi al Parco dei Giardini, ci sarà invece il concerto sempre di quest'ambito. Poi invece chiudiamo domenica 5 con Male che mi rifarei, che è un giovane cantautore italiano, bolognese oltretutto, quindi niente, sarà un suo concerto live. Poi c'è il terzo appuntamento dal 6 al 12 settembre con Corticella Doc, ritornano i documentari. Mi ha colpito quello di Filippo Vendemmiati, che racconta una storia che ha molto a che fare con il Navile, perché si parla del Canzoniere delle Lame. Sì, esatto. Allora, dal 6 al 12, come dicevi tu, alle ore 21, tutte le sere ci sono dei documentari. Il lunedì 6 c'è Gli anni che cantano, di Filippo Vendemmiati, che propone film legati alla tradizione della canzone popolare di protesta, insomma, no? Come riferimento, quindi sono loro un loro passaggio, una loro storia, e questa è una cosa molto interessante. Le altre serate invece sarà martedì 7, sono queste nuove esperienze di scuola particolari, scuole del bosco, cioè diciamo le esperienze che portano i bambini al di fuori degli asili tradizionali. Poi mercoledì 8 invece Fondata sul lavoro, è il primo articolo della Costituzione italiana, dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, e quindi qui si parla di questo e sul fatto che molti cittadini italiani invece per trovare lavoro purtroppo sono costretti a andare via, insomma, no? Quindi c'è un po' un racconto. Giovedì 9, Magar Women, che è la storia di un gruppo di donne che sostanzialmente governano un villaggio nelle catene montuose del Nepal. Venerdì 10, una storia secondo me molto importante, che è Nil Deiotti, Il tempo delle donne, con la meravigliosa Paolo Cortellesi come attrice e ricordo, diciamo, come riferimento, e che percorre la storia delle battaglie della parlamentare Nil Deiotti e del fatto che le donne devono essere più rappresentative sulla politica italiana come riferimento. Poi sabato 11 invece, questo è un po' l'incredibile storia del Rock in 1000, dove praticamente da Cesena è partita tutta questo movimento per far suonare l'Erma to Fly, e quindi c'è tutta la storia di questo racconto, insomma, praticamente che da uno stadio di Cesena con questo band di 1000 elementi, e che poi invece coinvolge questo gruppo e vengono a suonare insieme a loro. Poi l'ultima data invece, domenica 12, è i 50 anni del Sant'Arcangelo Festival. Anche qui è tutto un po' la storia del Sant'Arcangelo Festival, quindi teatro legato agli avvenimenti che hanno realizzato in questi 50 anni di questo festival molto importante per la cultura italiana. Tutte le sere dal 28 di agosto al 12 di settembre ci sarà la possibilità anche di mangiare aperitivo oppure cenare con la cooperativa Anima, che ci supporta in questo progetto. Tutti gli avvenimenti sono ingresso gratuito, ovviamente sì, valgono le norme anti-Covid. Esatto, tutti gli ingressi sono, noi e la nostra tradizione come associazione non abbiamo mai fatto pagare un biglietto, anche quando ci sono stati momenti dove c'era, come l'anno scorso, dove c'era la recensione, diciamo, e quindi c'era il discorso che si poteva anche creare un'ipotesi di biglietto, abbiamo sempre deciso di fare queste manifestazioni cioè questo vero per il cittadino, ma per un motivo molto semplice, che la realizzazione di questi eventi sono in parte utilizzate una piccola parte del 5 per 1000 che i cittadini si riconoscono, quindi diciamo che c'è un ritorno ai cittadini del loro riconoscimento a quello che noi facciamo quotidianamente sul parco, quindi la manutenzione, la pulizia e tutto il resto. Senza questo 5 per 1000 molto probabilmente questi avvenimenti non potrebbero esserci. Cioè, una cosa solo sola, sì, al di là delle, diciamo, delle, della rassegna stessa. Io lancio un appello ai cittadini un po' in generale, che sarebbe bello che ci fosse un rapporto di collaborazione tra il cittadino che viene al parco e l'associazione. In questo senso, molto spesso si vedono rifiuti abbandonati dopo feste, dopo avvenimenti, diciamo, familiari. Se uno viene al parco portandosi dietro quattro sporte di roba per festeggiare, bicchieri, carta, mangerezzo e tutto il resto, sarebbe anche molto bello che non le lasciasse lì queste quattro sporte, no, certo, ma le prendesse e le portasse nei cassonetti pubblici, diciamo, ecco, perché questo porterebbe a meno lavoro per noi, ma la possibilità per chi viene dopo di loro di avere un posto pulito, ecco. Allora io, Stefano, ti ringrazio, ricordo che per consultare il programma si può andare sulla pagina Facebook dell'associazione, certo, di volontariato Cabura, insomma, grazie e buona, grazie, buone rassegne estive. Grazie a te e grazie a voi che ci avete ascoltato.